Sette di te se trasume di musiche che sognate, sognate, sognatori, albe sempre terre, terre, chiostri, stronzi e rozzi, selvaggi e astri, copriteci di vizi, non aventi nulla, siete ora come dalla culla. Non abbiamo mai avuto nulla, medicamente in cena, al nulla, oblio, sguardo, muse, porta la notte dolce, di un'overdose, di un'overdose, di un'overdose. Sette di te, sette su me, di musiche che... Sognate, sognate, sognatori, albe sempre terre, terre, chiostri. Un'altra dose, d'amore. Un'altra serenata, stranite, lunatiche spose. Un'altra serenata stranite e lunatiche spose. Spose. Sette di te, sette su me, di musiche che sognate, sognate, sognatori, albe sempre terre, terre, chiostri. Senza nulla, non vivismo di lacrime. Il santo uragano gridano rime, anime contorcono possedute da note, rotte di anima, ricorda vite ancora, e ore oltretutto, di sole lotte, senza sedativi al cuore rotto. Senza amore che baci carne, nessuno vuole leccare. Amare ancora, vorrei amarmi, mentre scorgo tramonto immenso di dipinto del mio interiore mare. Il mio interiore mare, del mio interiore mare.